Con Stefano Landini, co-regista del documentario Cocktail Bar, storie jazz di Roma, di note e di amori. A Roma, la Casa del Cinema, lunedì 4 febbraio 2019. Stefano, ben trovato. Ciao. Ci racconti di questo lavoro? Dunque, è un documentario che abbiamo fatto a quattro mani, io e Tony Lama. Tony Lama è un esperto di jazz che ha un po' più, diciamo, grande di me, che è stato un manager di Torino, però è nato a Roma, è stato un manager di jazz per tanti, tanti anni. E tempo fa Tony fece un documentario su un locale di Torino che si chiamava lo Swing Club, che ha ospitato grandi come Chet Baker e mille altri, che ha chiuso. E questo documentario si chiamava Compro Oro, perché purtroppo il locale, lo Swing, è diventato un negozietto di Compro Oro. Chiaramente il primo pensiero che ho avuto, dato che erano tanti anni che inseguivo questo progetto, anzi avevo già iniziato a girare, è andato al musicking. Che cos'era il musicking? Per chi sta ascoltando e ha una certa età, diciamo così, si ricorda del musicking, questo locale storico di Roma, dove sono passati veramente tutti i più grandi, che ha rappresentato poi un'epoca in qualche modo. Da lì, ecco, sono passati Chet Baker, Charlie Mingus, tutti, tutti, tutti, adesso veramente Dexter Gordon. E quindi, ed era gestito da un personaggio molto particolare, che era Pepito Pignatelli, il principe Pepito Pignatelli, e da sua moglie Pitti Pignatelli, bellissima, corteggiata da tutti i grandi del jazz americani e non solo. La particolarità del Musichin rispetto agli altri locali italiani come Capovilla di Milano, che anche ha chiuso purtroppo, o lo Swing Club di Torino di cui abbiamo appena parlato, è stata quella di inserirsi in un contesto storico tutto particolare. Innanzitutto la vicenda sentimentale, sia sentimentale nei confronti del jazz, sia sentimentale tra Pepito e Pitti stessi, che è stata molto particolare. Pepito è morto nel 1981 all'interno del Musichin, e Pitti Pignatelli purtroppo si è suicidata, anche perché non riusciva a portare avanti il locale da sola. Quindi una storia d'amore fortissima. E in più la particolarità del fatto che Pepito era un principe, Pignatelli, a Roma sappiamo c'è anche i palazzi Pignatelli, c'è l'Appia Pignatelli, insomma non sono principi da poco, un principe ripudiato perché amava follemente il jazz, lui suonava anche la batteria non molto bene, però ha fatto anche dei dischi con dei grandi, Merle Waldron per esempio. E niente, questa storia tutta particolare, ho pensato si potesse fare un film. Ho iniziato a girare ormai 5 anni fa e ho realizzato delle interviste, alcune non ci sono già più purtroppo. Poi ho incontrato Tony Lama e abbiamo pensato, continuiamo insieme, nonostante le difficoltà, tanto che lui fosse a Torino e io a Roma, intanto lui veniva a Roma e giravamo queste belle interviste che abbiamo messo insieme e che proietteremo lunedì prossimo. Ecco, che quadro emerge da tutte queste interviste realizzate? Intanto dico velocemente chi sono i protagonisti di queste interviste. Sono innanzitutto grandi musicisti come Giovanni Tommaso, Enrico Rava, Bruno Piriaco, Franco D'Andrea, il grandissimo Franco D'Andrea, Roberto Gatto, Amedeo Tommasi, che è stato anche il pianista di Chet Baker, e molti altri. E poi ci sono anche altri personaggi come Pupi Avati, Renzo Arbore. Avanti, tra l'altro, sarà presente alla proiezione di lunedì pomeriggio, questo lunedì 4 febbraio, alla Casa del Cinema, a Villa Borghese, e molti altri, anzi, con lui. E, niente, questi personaggi hanno rappresentato un po' un'epoca, quindi il quadro che emerge da queste interviste, pian piano, negli anni, realizzandole, è stato quello di una profonda nostalgia per un'epoca. Non soltanto per il locale di Musichin che non c'è più, ma proprio per un'epoca che non c'è più, per una Roma che non c'è più, una Roma straordinaria, piena di arte come è ancora adesso, piena di storia come ancora adesso, ma anche piena di vitalità artistica che molto probabilmente con questo emerge si è andata perdendo un pochino. Stefano, come hai strutturato il lavoro? Dunque, molto semplice, è stato difficile mettere insieme e sbobinare tutte le interviste, che sono veramente tantissime e anche molto lunghe, perché in alcuni casi, adesso penso a Franco D'Andrea, siamo andati a Milano a casa sua e davvero è stato straordinario, non si fermava più di 3 ore, e quindi è stato difficile cogliere anche la Ava, cioè, nessuno si è risparmiato, perché in tutti abbiamo toccato quella corda emotiva, perché tutti li abbiamo portati poi sul palco, siamo riusciti ad entrare al Music Inn, ci hanno proprio dato il Music Inn per girare questo film, quindi portarli sul palco naturalmente per me è stato importante suscitare un'emozione, non so, Roberto Gatto si è emozionato salendo sul palco del Music Inn, anche altri, Enzo Scoppa, grande sassofonista, purtroppo anziano, però ancora in gran forma, insomma la struttura è stata questa, pian piano bisognava alternare il racconto su Roma, su quella Roma, su quegli anni, e naturalmente alternandolo con la vicenda di questo locale e soprattutto la vicenda personale di Petito Pignatelli e di Picchi Pignatelli, che ne fa un luogo particolare. È prevista un'uscita in sala o una forma di distribuzione o TV? Beh sì, naturalmente noi ci auguriamo, intanto dico una cosa che farà molto piacere a Tony, che è una cosa su cui caparbiamente Tony Lama e giustamente, io all'inizio ero un po' scettico, ma forse questo sogno si riesce a realizzare. Intanto questo è il secondo capitolo di un quadrittico, chiamiamolo così, sulle città italiane del jazz. Naturalmente non ci sono soltanto Roma, Torino, Milano, ma ci sono anche tutte le città come Napoli, Palermo, Bari, però insomma sarebbe troppo ambizioso adesso raccontare ogni singola città, anche se sarebbe splendido, però per il momento credo proprio che riusciremo a comporre un quadro che racconta Torino. Bologna, per esempio, anche è stata una città importante per il jazz, e naturalmente Roma. Mi dicevi di un'altra notazione importante per la proiezione a Roma. Sì, è importante dire, appunto, ripetiamo, lunedì 4 febbraio alle 17.30 alla Casa del Cinema, alle 17.30 ci sarà la proiezione del film, ma, sorpresa, dopo il film, anzi, quasi durante il film, ma non dico altro, l'autore della musica originale, della colonna sonora originale del film, Massimo Fedeli, col suo quintetto, una colonna sonora che ve lo dica fa splendida, originale jazz, eseguirà dal vivo i brani musicali del film. Quindi quando il film finirà state attenti, non vi alzate dalla vostra poltrona, perché ascolterete grande jazz dal vivo. Bene, ciao Stefano. Grazie, ciao Federico.